Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È alquanto probabile che chiunque di noi, una volta nella vita, scivolando su una buccia di banana o su qualsiasi altro materiale scivoloso finito sotto le suole delle scarpe, si sia sentito dire, una volta spente le risate fragorose, «sembravi Ridolini». Una caduta improvvisa, uno schiaffo o una torta in piena faccia, un'improbabile acrobazia o un banale ma paradossale rovescio di fortuna è da sempre fonte di un divertimento istantaneo, atavico e viscerale, che ci riporta a uno stadio infantile, a un elementare desiderio di derisione che affonda le sue radici nell'antropologia, ma che prende il via come forma d'arte cinematografica a Hollywood nei primi anni del Novecento. È Mack Sennett, un canadese figlio di immigrati irlandesi, che inventa le slapstick comedies, o le comiche, delle quali il primo maggiore interprete è stato appunto Ridolini, al secolo Larry Simon, il comico americano con la faccia imbiancata, perennemente in bombetta e salopette, dalla comicità frenetica, fatta di corse a perdifiato e cadute rovinose. Ridolini, Ridolini! Oh, dite, signorina. Volete battervi con quell'uomo? Ah, sicuro, io e lo batterò, di certo, vedrete. Sono forte. Disgraziato, voi siete pazzo, ha delle spalle grosse così. Oh, non importa, figuratevi. Sono robusto io. Che bel colpo d'occhio, vero? E che bella visuale, eh? Questo sa di cadavere. Andiamo a fare un giretto. Sarà meglio. Oggi a Destini Incrociati parliamo della nascita del cinema comico americano, un genere che dagli anni 10 del Novecento ha conosciuto una straordinaria diffusione ed è stata la più importante palestra per la definitiva messa a punto del linguaggio cinematografico, grazie alla sua peculiare caratteristica, la velocità. I numeri del cinema comico, presi dalla tradizione circense, dagli acrobati e dalle farse popolari, sono stati resi straordinariamente frenetici e vibranti grazie alla facoltà di sintesi che nasce dalla tecnica del montaggio, del quale Mack Sennett è stato antesignano maestro e padre putativo di una generazione di attori dall'incredibile talento. Charlie Chaplin, i fratelli Marx, Laurel e Hardy, solo per citare i più noti. Ma la nostra attenzione oggi si sofferma in particolare sulla storia di due di loro, che colleghi e amici hanno visto le loro strade incrociarsi e mischiare professionalità, comicità e leggenda, ma anche declino e tragedia, depressione e alcolismo. Prima di dedicarci ai nostri due protagonisti, è necessario fare un passo indietro per capire dove affondano le radici del fenomeno del cinema comico americano. Trasferiamoci quindi in California, nel sobborgo del Bosco di Agrifogli, oggi da tutti noto come Hollywood. È il 1910 e da qualche anno è iniziata la lotta per i brevetti cinematografici. Il monopolio è detenuto dalla Motion Picture Patents Company, padrona incontrastata nella East Coast, situazione che costringe i produttori indipendenti a trasferirsi da New York e da Chicago, allora il centro della produzione cinematografica, in California. L'allora piccolo villaggio è scelto sia per le favorevoli condizioni climatiche che per la vicinanza al mare, alle montagne e al deserto, ambienti che si prestano come ottimi sfondi naturali per girare gli esterni. La scelta è agevolata anche dal fatto che i produttori godono a Hollywood di grande libertà, dovuta alla mancanza di leggi che regolano l'attività di produzione e lo sfruttamento dei lavoratori dello spettacolo, privi della tutela sindacale della costa est. Così, già dal 1920, Hollywood diventa il centro dell'industria cinematografica americana, la cui potenzialità è intuita tra i primi da William Fox, dai fratelli Warner, dal russo Burt Meyer e dal polacco Samuel Goldwyn, che uniranno le forze nella leggendaria Metro-Goldwyn-Meyer. Sono i pionieri di un'industria che presto cambierà il volto dell'intrattenimento del XX secolo. The drammi storici, polizieschi, commedie sentimentali. Presto il mondo della celluloide si riempie di storie appassionanti. Ma già dal secondo decennio del secolo un nuovo genere si impone all'attenzione del pubblico. Il merito è di Mack Sennett, il canadese definito The King of Comedy, che tra il 1910 e il 1929, il periodo d'oro del film muto, produce quasi un migliaio di pellicole, tutte a sfondo comico, inventando di fatto il genere slapstick. Ecco come ne parla Gianni Rondolino, autorevole storico del cinema, nel saggio Storia del cinema. Il mondo dei suoi film di una o due bobine è popolato di personaggi unidimensionali che si rincorrono freneticamente, combinano ogni sorta di guai, passano da un luogo all'altro con straordinaria tempestività, diventano essi stessi oggetti di una composizione figurativa e dinamica che sfida continuamente le leggi della prospettiva e della fisica dei corpi. Ma è anche un mondo che lascia trasparire, in filigrana, una visione satirica e beffarda della società, in cui poliziotti, belle ragazze, vagabondi e piccoli borghesi sono travolti in una sorta di balletto surreale, che può anche essere interpretato, un poco forzando negli intenti e risultati espressivi, come una critica ironica e pungente delle strutture sociali di un'America di cui invano Griffith, il maggior cineasta del periodo, tentava di esaltare le virtù morali. Nel luglio 1912, Sennett, assieme ai due soci Adam Kessel e Charles Bauman, fonda la Keystone Pictures, casa cinematografica dedicata alla produzione di film comici e destinata a rimanere nella storia del cinema come la più grande fabbrica di film del genere, palestra per i più grandi talenti dello schermo dell'epoca. Tra questi, dal 1913, viene a far parte un giovane talento comico fino a quel momento sconosciuto al grande pubblico. È un uomo imponente e massiccio, di quasi 150 kg, con un faccione rotondo ma dai tratti fanciulleschi che ne fanno una perfetta maschera comica. Ha un soprannome, Fatty, che manco a dirlo da noi si traduce in ciccione, ma il suo vero nome è Roscoe Arbuckle. Roscoe Arbuckle. Ok, I'm a cheerleader now. Giorni nei quali Roscoe sarà chiamato e conosciuto da tutti come Fatty sono ancora lontani quando la famiglia Arbuckle si trasferisce in California a solo un anno dalla sua nascita. Ma è proprio nella Città degli Angeli, allora solo un placido e assolato paese di 20.000 anime, che Roscoe muove i primi passi verso quella che diventerà la sua professione. Il bambinone del Kansas è già molto voluminoso prima ancora di compiere i 10 anni. Essere un clown, un intrattenitore, un comico, anche se quella parola ancora non significa molto nel mondo dello spettacolo, gli viene facile. A 8 anni è già sul palco in piccoli teatri di provincia, rivelando sorprendenti qualità acrobatiche in relazione alla stazza. Roscoe canta anche molto bene. Ha una voce limpida, insieme potente, che anni dopo incanterà persino il grande tenore Enrico Caruso, che sentendolo cantare un giorno per caso alla fine di uno spettacolo teatrale, pronuncerà per lui parole importanti. Quando rinuncerai a queste sciocchezze che fai per vivere, con il giusto allenamento potresti diventare il secondo più grande cantante del mondo, dopo di me. Roscoe è lusingato. E forse se avesse dato retta al grande tenore, il suo destino avrebbe potuto essere diverso. Ma lui sente di non essere nato per cantare. La sua vis comica è preponderante. La sua fisicità e il suo viso, al contempo paffuto e buffo, ma rassicurante e buono, lo rendono perfetto per il prodotto che un regista hollywoodiano sta mettendo a punto alla fine degli anni 10. È Mack Sennett, inventore della slapstick comedy, che rappresenta per Roscoe la prima decisiva svolta del destino e che qui sentiamo ricordare il loro primo incontro. Ricordo il nostro primo incontro nel 1912. Era un uomo straordinario, salì le scale con la leggerezza di un Fred Astaire, ma era enorme, obeso, veramente grasso. «Mi chiamo Roscoe Arbuckle», mi disse. «Sono un comico e un acrobata, ma credo di poter far bene anche nel cinema, che ne pensa?» E dopo aver detto questo, fece un movimento di gambe leggero, batté le mani e fece una capriola all'indietro con la grazia di una ballerina. Era enorme, è vero, ma anche timido e modesto. Quando gli proposi Fetti, Ciccione, come nome d'arte, non gli piacque granché e anzi ci teneva a presentarsi sempre come Roscoe. Accettò il nomignolo per il lavoro, ma lui non lo amava per niente. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Fatty Arbuckle, forgiato dalle sapienti mani di Sennett, è scritturato per la Keystone Pictures a $400 la settimana e una clausola contrattuale con la quale si impegna a non scendere mai sotto i 110 kg. L'idea di Sennett è infatti quella di affidargli il ruolo del poliziotto grasso dei Keystone Cops per una lunga serie di film e in seguito, una volta affermata la sua figura presso il pubblico, affidargli il ruolo da protagonista interpretando praticamente se stesso. Sentiamo al riguardo ancora l'autorevole voce di Gianni Rondolino dalle pagine di La Storia del Cinema. In quasi tutti i film realizzati, supervisionati o prodotti in quel periodo da Sennett e suoi attori, ci sono invenzioni farsesche, trovate comiche, elementi dinamici, soluzioni narrative che sorreggono efficacemente l'impianto spettacolare, nonostante la banalità delle situazioni e la continua iterazione dei motivi umoristici. Senza contare che questo fantasmagorico e grottesco inventario di personaggi e luoghi scenici riflette, in uno specchio deformante, la realtà umana e sociale di quegli anni. Vagabondi e poliziotti, ladri operai, ragazze del popolo e ricchi borghesi, puritani e fuorilegge sullo sfondo di città e campagne, di locali pubblici e case private. È la saga popolare corrosiva e beffarda di una società in piena trasformazione rappresentata nelle sue manifestazioni più evidentemente farsesche, o possibili di un'interpretazione farsesca. Arbuckle si cala immediatamente nel ruolo e nei successivi 3 anni sono decine le pellicole che lo vedono protagonista o spalla di alcuni dei più importanti attori del momento. E si dice anche che il grande Charlie Chaplin abbia modellato il personaggio del vagabondo proprio sul look di Roscoe. Larghi pantaloni sostenuti da bretelle, stivali e bombetta. Le produzioni di questo periodo appartengono naturalmente al cinema muto. Ma proviamo comunque ad ascoltare un estratto da Fatty Macellaio, pellicola del 1918. Ascoltando la frenetica musica di accompagnamento e chiudendo gli occhi per immaginare il grande grosso Roscoe prendere una torta in faccia o ruzzolare su una buccia di banana, il risultato riesce ad essere comico anche senza l'ausilio di immagini. Roscoe Arbuckle, insieme ai colleghi del cinema muto, sia comico che drammatico, sono i pionieri e gli artefici di quello che nel volgere di pochi anni diventerà il fenomeno dello star system. Il pubblico comincia ad abituarsi e affezionarsi ai volti che appaiono sul grande schermo, benché i primi film, per esplicito volere delle case cinematografiche, evitino di riportare i nomi degli attori, proprio per evitare che questi ultimi diventino anelli indispensabili dell'ingranaggio e possano rivendicare contratti più ricchi. Le case di produzione cominciano a ricevere tonnellate di lettere indirizzate a questi proto-divi: Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Gloria Swanson e Valentino, ma anche Charlie Chaplin, Ben Turpin e dopo alcuni anni di gavette anche Roscoe diventano volti noti presso il pubblico americano. Ciò che interessa al grande pubblico, quasi esclusivamente femminile, sono gli aspetti privati della vita delle star: amori, sesso, eccessi, crimini, origini dei divi e di conseguenza le rubriche, da prima discrete, si fanno sempre più pruriginose. Nascono agenzie di casting, riviste scandalistiche, studio formati da sole star come la United Artists e Hollywood inizia a prendere il connotato di fabbrica di stelle che conserva ancora oggi quasi intatto. Ma presto, a Fatty Arbuckle, troppo ingenuo in un mondo già molto competitivo che trasforma in polvere le sue stelle con la stessa velocità con cui le forgia, tutto questo costerà molto caro. Ma non è ancora il momento di parlarne. Godiamoci, infatti, salire agilmente la scala della sua carriera e incontrare un uomo, anche lui un attore comico, destinato a diventare una leggenda e ancor prima un suo grande amico, forse l'unico, che Arbuckle abbia mai avuto. Old friends sat on their park bench like bookends, an newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo assistendo all'inarrestabile sviluppo del cinema americano e di quella che dagli anni 20 in poi diventa la sua Mecca, Hollywood. Sono anni fondamentali nella storia degli Stati Uniti, nei quali vengono alla luce le sostanziali debolezze di un sistema politico e sociale che non riesce a risolvere i problemi di una nazione in fase di sviluppo economico e che nel cinema trovano una sorta di specchio, nemmeno troppo deformante. E il cinema comico, con le sue torte in faccia, le situazioni paradossali e grottesche, diventa un modo di ridere sugli aspetti a volte fin troppo seriosi e fintamente puritani di una nazione che si prepara a diventare di lì a pochi anni la più grande potenza del mondo. Stiamo anche seguendo l'evolversi della carriera di un attore comico dalle grandi qualità recitative e dal fisico imponente, Roscoe Arbuckle, detto Fatty, che dopo alcuni anni di gavetta alla Keystone Pictures di Mack Sennett e un successo sempre crescente di pubblico e ammiratori, decide nel 1917 di fondare una propria casa di produzione, la Comic, grazie alla quale poter esercitare il pieno controllo delle sue pellicole. Ed è proprio negli uffici della Comic che Roscoe sta per incontrare un giovane talento che non solo lancerà nel firmamento comico, ma al quale sarà per sempre legato e ricambiato da sincera amicizia, anche fuori dal set. Il suo nome è Joseph Frank Keaton VI, universalmente noto come Buster Keaton. Buster Keaton. Generale, lei è il nemico più simpatico che noi abbiamo conosciuto. Grazie. La scena che abbiamo ascoltato da Due Marines e un generale, film del 1965, interpretato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, vede Buster Keaton recitare al fianco di due grandi comici siciliani in una parodia sulla Seconda Guerra Mondiale, nella quale Keaton, qui in una delle sue ultime apparizioni, riveste i panni di un patetico generale tedesco. Questa scena è geniale e poetica insieme. I due scombinati Marines spogliano il generale, per il quale provano un sentimento di commiserazione, e lo rivestono in modo da poter passare inosservato tra le linee nemiche. La vestizione finale ci mostra il Keaton conosciuto in tutto il mondo e per tutta la sua carriera. Giacca lunga dell'abito scuro e cappelluccio schiacciato di paglia rigida, e soprattutto lo si sente pronunciare quel grazie, che è l'unica battuta recitata da Buster nel film e in tutta la sua carriera. Franco Franchi lo ricorda con queste parole. È stata un'emozione indescrivibile trovarsi al cospetto del grande Buster Keaton. Sin dall'infanzia uno dei nostri comici preferiti insieme a Chaplin e Stanlio Olio. Quando il produttore ce lo presentò sorrideva, proprio lui che non lo faceva mai. Una persona squisita. E nonostante non parlasse italiano e noi non parlassimo inglese, riuscivamo a comunicare aiutandoci con la mimica e i gesti. Non dimenticherò mai l'umanità, la dolcezza e l'umiltà di un personaggio di tale statura. Un giorno lo feci ridere facendo l'imitazione della scimmia, e da quel giorno Keaton ogni mattina mi portava sul set noccioline e banane. Keaton diceva una sola parola alla fine del film: grazie. Per quella parola ci fu una gara di doppiatori, tutti volevano farlo: Cucciola, Cigoli, Rinaldi, Gazzolo, Amendola. Alla fine mi pare che vinse Cucciola. Da dove arriva Buster Keaton? Kansas, Stati Uniti. Mentre manca solo un anno all'inizio di un nuovo secolo, Harry Houdini, il grande illusionista di origini ungheresi, è ospite di Joseph e Mira Keaton, due attori di vaudeville con i quali collabora e di cui è diventato amico. È una serata tranquilla, passata piacevolmente a discutere di nuovi numeri, costumi di scena e date dei successivi spettacoli. Solo leggermente disturbata dai rumorosi giochi dei piccoli figli dei Keaton, il più grande dei tre, Joseph VI, 4 anni, fa di tutto per attirare l'attenzione dei genitori e dell'illustre ospite. Salta, balla, stona canzoncine, scimmiotta un'imitazione. Infine, decide di salire i gradini delle scale di casa 2 alla volta per declamare dall'alto il suo spettacolo improvvisato. Mentre tutti lo osservano divertiti, il piccolo Joe incespica e cade, facendo il percorso inverso a rotta di collo e lasciandoli con il fiato sospeso. Come fatto di gomma, il bambino si rialza subito, sorride, se ne va con un goffo inchino. What a buster! Esclama uno sbalordito Houdini mentre applaude le gesta del piccolo Keaton. Buster significa letteralmente fenomeno ed è un'esclamazione spesso usata nei confronti di qualcuno che fa una cosa strabiliante, eccezionale. Nel linguaggio tecnico può far riferimento a ciò che è gommoso, pneumatico, che rimbalza. Quel bambino rimbalzante e scavezzacollo da quel giorno sarà chiamato sempre così. Spectacular! Spectacular! The words of the vernacular can describe this great event. You'll be dumb with wonderment. Returns are fixed at 10%. You must agree that's excellent. And on top of your fee, you'll be in all the history. In nomen omen, dicevano gli antichi latini. Il nome è un presagio. Buster, fenomeno, è il nome che Keaton porterà tutta la vita ad accompagnare una carriera cinematografica costellata di fughe, inseguimenti, voli, acrobazie e appunto capitomboli di ogni tipo. Ma certo Keaton non è soltanto questo. Grazie a un attento e meticoloso lavoro su se stesso, forgia la sua figura di uomo silenzioso, quasi sospeso, in una dimensione onirica, eternamente in conflitto con il mondo. Il volto impassibile con i grandi occhi e una mimica straordinaria in continua alternanza tra movimenti controllati e scatti improvvisi. L'uomo che non ride mai, così è definito dalla critica del tempo, ma ha lo scopo di sottolineare come invece i suoi film facessero davvero ridere, anche se permeati da una malinconia di fondo che lo stesso Buster, in un'intervista risalente agli anni 20, sottintende con queste parole. Fare il comico è un lavoro serio. Se un attore comico ride, il pubblico si convince che quello che vede è tutta una finzione. Io ho imparato lavorando sul palcoscenico, tra torte in faccia e scherzi vari. Più io mi mostravo stupito per quello che mi accadeva nello spettacolo e più la gente rideva. Ecco, io non rido mai perché non c'è niente da ridere. Le radici del personaggio Buster affondano le origini nello spettacolo vaudeville, nel quale i genitori lo fanno esordire fin da bambino e dove per anni si perfeziona nei vari generi di recitazione approfondendo in particolare le sue doti mimiche. Eppure presto sente che il teatro non basta e soprattutto si innamora del nuovo genere di intrattenimento che ormai sta spopolando da qualche anno, il cinema, di cui non ha tuttavia alcuna esperienza. Ma il destino, nelle sembianze di una deliziosa segretaria di produzione di nome Natalie Talmadge, gli offre presto l'occasione della vita. Natalie lavora infatti per la Comic, la casa di produzione cinematografica fondata nel 1917 da Roscoe Arbuckle, a quei tempi, insieme a Chaplin, il comico di maggior successo in America. E lei, divenuta la sua fidanzata e poi futura moglie, a presentarlo a Roscoe, che ha già sentito parlare delle sue qualità di attore e mimo. Natalie organizza l'incontro e i due si piacciono subito, fisicamente molto diversi, ma con molti punti di contatto. Entrambi vengono dal Kansas. Entrambi amano far ridere la gente, stupirla, ma anche farla pensare. Roscoe non si lascia scappare l'occasione e nel giro di 24 ore scrittura Buster alla Comic, convinto di essere di fronte a un grandissimo talento. Ne diviene presto il mentore, insegnandogli la tecnica del cinema, dalla recitazione alla ripresa, dalla regia al montaggio. Ma più di ogni altra cosa, i due divengono una coppia comica di assoluta eccellenza, recitando insieme in decine di capolavori del cinema muto. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Destini incrociati. A Destini Incrociati stiamo seguendo l'ascesa inarrestabile della carriera di due grandi interpreti del cinema comico americano degli anni 20, Roscoe Arbuckle, detto Fatty, e Joseph Keaton, detto Buster. I due da qualche anno hanno creato un sodalizio di grande successo, reinventando la commedia slapstick con l'aggiunta di una capacità recitativa fuori dal comune, e la loro è anche la storia di una grande amicizia. Tuttavia il destino, come nei loro film, sta gettando sul percorso di uno dei due una buccia di banana sulla quale scivolerà con conseguenze devastanti e cambiandone il corso per sempre. Ultime notizie! Clamorosa San Francisco! Arrestato Fatty Arbuckle, accusato dell'omicidio dell'attrice Virginia Rappi! Dettagli all'interno! Primi di settembre 1921, California. Sul set del nuovo film di Fatty Arbuckle, la stanchezza e il caldo si fanno sentire pesantemente. Roscoe, da poco scritturato dalla Paramount con un contratto record di $1 milione l'anno, decide di fare una pausa rigenerante nella baia di San Francisco, in compagnia di un paio di amici. È ricco, famoso, all'apice della carriera di attore e produttore. Forse si sente onnipotente, intoccabile. Forse è solo un uomo in fuga da una maschera che inizia a opprimerlo. In ogni caso, desidera festeggiare alla grande e dopo aver preso alloggio presso il St. Francis Hotel, decide di organizzare un party invitando soprattutto ragazze, alcune amiche, qualche starletta del momento. Tra queste, l'attrice Virginia Rappi, fidanzata del regista Henry Lerman, che, giunta in compagnia di due amiche, non perde tempo a entrare in sintonia con il gruppo che già da qualche ora è dedito al consumo di alcolici e stupefacenti. Mancano solo poche ore alla fine della vita dell'attrice e della carriera di Fatty Arbuckle. Kenneth Anger, sceneggiatore e regista statunitense, riassume con queste parole la brutta situazione di Arbuckle. Qualche voce girava, in effetti, sui festini luculliani e orgiastici che Fatty amava organizzare invitando il gotha hollywoodiano. Party girls disinibite e pagate avevano il compito di allietare gli ospiti e Arbuckle stesso sotto ogni aspetto. «Muoio, muoio, mi ha fatto male». Queste sono le disperate parole esclamate dal Rappi e riportate dalla stampa quando viene trovata nella stanza da letto di Arbuckle, stravolta e confusa a causa di un cocktail di alcol e droghe, i segni evidenti di un tentativo di violenza sul corpo. «È stato Arbuckle a ridurmi così», aggiungerà al momento del ricovero e qualche istante prima di cadere in un coma dal quale non riemergerà mai più. Il 10 settembre 1921, la giovane attrice muore insieme alla carriera di Fatty Arbuckle, che immediatamente dopo è incriminato per omicidio e stupro e incarcerato a San Francisco. Sono certo della sua innocenza. Roscoe Arbuckle è la persona più pura e l'anima più candida che io abbia mai conosciuto. Con queste parole, l'amico Buster Keaton mette subito in chiaro al momento dell'inizio del processo da quale parte starà. Non era con lui il giorno della tragedia, ma sarà al suo fianco per tutto il processo e per tutto il corso della sua vita. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Il 12 aprile 1922 Arbuckle è clamorosamente assolto, ma la sua immagine pubblica è irrimediabilmente bruciata. Keaton, l'unico amico rimasto al suo fianco, lo esorta a riprovarci, suggerendogli di cambiare il nome in William Goodrich, ma negli anni a seguire, a Fatty, sono proposte solo parti minori e qualche regia per comiche di basso livello. La sua caduta è verticale e senza freni. I suoi nuovi film sono boicottati. Nessun produttore gli propone più di lavorare. Il pubblico ha abbandonato il suo beniamino. Nel 1925 anche Minta Durfee, la prima moglie, chiede il divorzio e Roscoe, divenuto intrattabile e irascibile, trova conforto solo nell'alcol, ingrassa ulteriormente e la notte del 29 giugno 1933, a soli 46 anni, muore di infarto, senza essere mai riuscito a riabilitarsi del tutto. Fatty è morto di crepacuore. L'alcol non c'entra, nemmeno il suo peso. È stato il dispiacere di vedere la sua carriera andare a pezzi, il suo pubblico adorante voltargli le spalle per sempre, la cattiveria dei colleghi e il cinismo di Hollywood. Di questo è morto, nient'altro. Queste le parole di un Buster Keaton commosso e a suo modo sincero persino di fronte all'evidenza, nel giorno della cerimonia funebre, che vede le ceneri di Arbuckle sparse da pochi amici e dalla terza moglie nell'Oceano Pacifico. Buster perde un amico e un maestro, ma nei 10 anni da quella brutta storia, la sua carriera, al contrario di quella di Fatty, è decisamente decollata. recita in decine di pellicole e ne dirige altrettante, rivelando una grandissima padronanza tecnica. Il suo processo di maturazione artistica è rapidissimo e ben visibile. Sembra quasi una specie di passaggio del testimone tra i due. Ma alla fine degli anni venti, anche per lui il destino cambia sotto forma di un'innovazione tecnica destinata a rivoluzionare il cinema per sempre. L'avvento del sonoro decreta infatti l'inizio di un nuovo linguaggio cinematografico, colpendo in particolar modo il genere comico fino ad allora basato sulla fisicità e il movimento. Buster fatica molto ad adattarsi e trova difficoltà anche con la sua casa di produzione, fino a trovarsi costretto a lasciarla per accettare un contratto che lo lega in ogni senso all'allora già potente Metro Goldwyn Mayer. Buster ricorda quegli anni con queste malinconiche parole. Nel 1928 commisi l'errore più grande della mia vita. Mi lasciai convincere da Joe Schenck, mio malgrado, a rinunciare ai miei studios per lavorare con la MGM. Ma i due anni peggiori della mia vita furono quelli tra il 1933 e il 1935. Mi misi a scolare una bottiglia dietro l'altra e fui colpito da un brutto attacco di delirium tremens. Il ricovero in una clinica per la disintossicazione è solo il preludio di un declino inarrestabile. La vita di Keaton assume una piega pericolosamente simile a quella del vecchio amico Fatty. Il dissesto economico, l'alcol, il divorzio da Natalie Talmage. Ma la sua è una tempra diversa. Lui è un Buster, un acrobata del palcoscenico, ma anche della vita. Si riprende, si risposa altre due volte ed è scritturato in parti minori in una manciata di film sonori, compresa la parte del vecchio pianista in Luci della ribalta, in cui fa da spalla al suo grande rivale, quel Charlie Chaplin, che ha invece saputo convertirsi al sonoro ed è divenuto una star internazionale. Eppure, la carriera del grande uomo senza sorriso non conoscerà più la grandezza di un tempo. E solo negli anni 50, in parte grazie alla riscoperta dei suoi film perduti, molto per un rinnovato interesse della critica e ancora per qualche intelligente tentativo di guadagnare sui suoi vecchi copyright operato dalla MGM, che si iniziano a riproiettare i suoi film, accolti con reverente stupore da chi non li aveva mai visti prima e salutati giustamente come assoluti capolavori. Nel 1959, un meritato Oscar alla carriera lo riabilita definitivamente agli occhi di pubblico e critica. Ma ormai è tardi. Qualche anno dopo, Buster si ammala di cancro ai polmoni e lascia il palcoscenico della vita nel 1966. L'anno precedente, nell'immagine finale di Film, tratto dall'unica sceneggiatura scritta da Samuel Beckett per il cinema, Keaton fissa a lungo e in silenzio il suo sguardo profondo in macchina, regalando al mondo l'ultimo suo grande momento di recitazione. Un uomo può nascondersi da chiunque, ma non può andar via da se stesso. Questa è la limpida e insieme malinconica spiegazione che il grande Buster Keaton darà poi di quello sguardo intenso. Forse ha parlato anche a nome di Fatty Arbuckle, il grande amico di un tempo. In your side, I'll